ringraziamo comunque sia Angela che ha fatto un grosso sforzo di traduzione, che il professore preferirei non rinviare completamente il dibattito al pomeriggio e iniziare almeno qui una prima forma di dialogo. Quindi se ci sono delle domande. Juste un petit point, c'est, je suis tout à fait d'accord avec la comparaison que vous avez faite, je pense que c'est très juste ce que vous avez dit, ce que tu as dit, je crois que c'est très juste, etc. Mais c'est quand même remarquable de voir malgré tout une similarité entre les deux, parce qu'il y a l'idée d'un moi curseur qui se promène et qui a différents degrés d'intensité, c'est une unicité dans le monde grec. Et même dans le monde moderne, il n'y en a pas eu tant que ça. Et l'accent en a fait un usage très intéressant et fécond, on peut dire. Non, je suis d'accord avec ce que tu veux dire. Allora, il professor Narbonne condivide con il professor Rula l'esposizione, sottolineerebbe di più però la somiglianza invece che le diversità, nel senso che l'idea plotiniana di un io che percorre i vari livelli della realtà, che ritiene che sia in fondo molto simile a quella bergsoniana e che sia un unicum nell'antichità e anche nella filosofia moderna. Tu veux dire quelque chose? Non. C'était une confirmation quelque part. Dodds avait dit que avait fait de Plotin l'inventeur de l'inconscient. Mm-hmm. Ah, c'est une donnée nouvelle quand même, c'est vrai. Mm-hmm. On peut discuter, mais quand même. Professor Narbonne fa notare che già Dodds aveva fatto di Plotino l'inventore dell'inconscio o dell'incosciente. Qua non saprei quale due termini. Inconscio. Beh, se non ci sono per il momento altre domande, chiudiamo la sessione della mattina, ringraziamo ancora e eventualmente un prolungamento della discussione potrà essere fatto questo pomeriggio. Allora, grazie, ci ritroviamo qui alle ore 15.